GR24, il sole 24 ore. Nessun rischio di elezioni anticipate, conferma la maggioranza, c'è un'intesa sulle riforme. OCSE in Italia, debito in crescita, aumenta la disoccupazione, il PIL tornerà a crescere nel 2010. Afghanistan, insediato Karzai. Rapporto Censis sulla comunicazione, boom dei social network, si legge meno. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. In primo piano dunque la politica, con le agitazioni della maggioranza ma anche con la notizia dell'ultima ora che sarebbe stata trovata un'intesa sulle riforme. Ci aggiorna in diretta sulla situazione Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Qualcosa si muove dunque sul terreno delle riforme istituzionali. Notizia di poco fa, Palazzo Madama discuterà mercoledì 2 dicembre una mozione condivisa da tutti i gruppi parlamentari, lo ha annunciato la presidente dei senatori del PD Finocchiaro. Terreno comune di lavoro, riduzione del numero dei parlamentari, fine del bicameralismo perfetto e trasformazione del Senato in Camera delle Regioni. Clima più disteso intanto nel centrodestra dopo le parole di ieri del presidente del Consiglio Berlusconi, un richiamo di fatto quello del premier a tutta la coalizione affinché si torni ad avere una prospettiva di legislatura e che non si viva sulle polemiche del momento, un richiamo alla compattezza dunque da parte di Berlusconi a tutto il centrodestra in un difficile momento per l'esecutivo, la crisi economica, la giustizia, le riforme. Oggi dal Popolo della Libertà ad intervenire il capogruppo Cicchitto, che ai suoi dice la ricreazione è terminata. Ascoltiamo. La maggioranza va avanti, il governo lavora, c'è un dibattito però riportato nelle sedi di partito. È finita una fase in cui ognuno parla a sproposito oppure senza fare i conti con quello che è la logica del programma di governo e della linea che la maggioranza ha. Maggioranza dunque ufficialmente più compatta, in realtà la prova del 9 si avrà tra poche settimane con il processo breve, vero terreno di scontro, quello della giustizia tra Fini e Berlusconi. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Tema caldo resta l'immigrazione. Al voto agli extracomunitari era dedicato il nostro sondaggio di oggi. La proposta ha già suscitato qualche mal di pancia nella maggioranza, perché a firmarla, oltre a esponenti dell'opposizione, ci sono anche parlamentari vicini al presidente della Camera Fini. È la proposta per concedere il diritto di voto alle elezioni amministrative agli extracomunitari regolari in Italia da almeno 5 anni. Diritto di voto che l'onorevole Granata del Popolo della Libertà difende così. Perché la cittadinanza diventa attiva anche attraverso i diritti politici e attraverso il diritto di voto si fa sì che i migranti irregolari possano aggregarsi nelle forze politiche che ritengono essere più vicine alle loro sensibilità. La Lega tuona, non accadrà mai. Ma voi che ne pensate? Dareste la possibilità agli extracomunitari regolari di scegliere il sindaco della propria città? Ha prevalso il no, con il 54%. Bianco-Nero torna domattina alle 8.30 per votare, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. Governo solido aveva intanto confermato anche Pier Silvio Berlusconi a Monte Carlo oggi per lanciare i nuovi pacchetti di cinema e l'offerta di film on demand di Premium. È la mossa Mediaset nella battaglia contro Sky. Media importanti dunque, media dei quali si è diffusamente parlato oggi alla presentazione del rapporto Censis sulla comunicazione. Dei risultati ci parla in diretta Nicola Accardo. Nicola. Sì, buongiorno. Internet ha dominato le riflessioni dei relatori dell'ottavo rapporto del Censis, che ha messo in evidenza i progressi perché è migliorato l'accesso della popolazione alla rete, ma anche gli effetti negativi. Da quando internet ha invaso il mondo dell'informazione sono diminuiti i lettori della carta stampata e così è aumentato il press divided. Ora solo il 54% degli italiani sfoglia ogni tanto il giornale. Poi c'è un altro problema, quello dei diritti d'autore, violati dalla diffusione dei prodotti culturali su piattaforme come YouTube. Da qui parte l'accusa del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Sentiamolo. Questo è un grosso problema che io naturalmente metto sul tavolo dei regolatori, dei legislatori, di chi ci governa, a vari piani, al piano locale, al piano europeo e al piano mondiale. Perché questa è una cosa veramente vitale, cruciale, perché se non c'è chi paga il conto, non ci sarà più neanche il lancio. Un dato conforta comunque le radio e le televisioni, gli ascolti aumentano e internet non le ha ancora sostituite. Quelli che navigano invece si informano sempre di meno sui giornali e si tratta di giovani, maschi e con un buon livello di istruzione. Linea allo studio. Grazie a Nicola Accardo. Noi ci spostiamo all'estero per parlare dell'insediamento a Kabul del presidente Karzai. Alberto Negri. Non ci facciamo illusioni. Sono finiti i giorni in cui si parlava di come aiutare gli afghani a costruire una democrazia. Il nostro obiettivo primario è la sicurezza degli Stati Uniti e come proteggere e difendere il nostro paese da futuri attacchi. Queste sono parole del segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ha assistito oggi all'insediamento alla presidenza di Hamid Karzai. Karzai ha promesso lotta alla corruzione, al narcotraffico e lanciato un appello alla riconciliazione al rivale Abdullah. Ma più che un discorso della svolta, dopo le contestatissime elezioni d'agosto, quello di oggi è sembrato l'inizio di un lungo addio che dovrebbe portare fuori dall'Afghanistan le truppe internazionali entro il 2014. Gli Stati Uniti manderanno altre truppe, arriveranno altri aiuti, ma Karzai e i talebani sanno che l'America di Obama ha fretta di fare le valigie. Gli occidentali, dicono gli integralisti della guerriglia, hanno l'orologio. Noi abbiamo il tempo. Terminato il viaggio di Barack Obama in Asia, dalla Corea del Sud ultima tappa, il presidente americano ha lanciato anche un avvertimento all'Iran. I piedi a Seul, lo sguardo a Teheran. Barack Obama, in visita alla Corea del Sud, ha lanciato stamattina un avvertimento al governo iraniano. Gli Stati Uniti, ha detto il presidente americano, stanno valutando con i paesi alleati l'opportunità di nuove sanzioni contro l'Iran, in seguito al mancato accordo sull'arricchimento dell'uranio. Gli Stati Uniti sono fortemente motivati a difendere la Corea del Sud, anche con il deterrente nucleare, ha aggiunto Obama, rinnovando in questo modo la validità del cosiddetto ombrello nucleare a protezione del paese asiatico. Secondo Obama, tra gli alleati c'è una visione comune sulla necessità di risolvere il problema, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla possibile natura delle sanzioni. L'Iran aveva annunciato ieri la sua opposizione all'accordo proposto dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, chiedendo una nuova riunione a Vienna con i sei paesi coinvolti nel negoziato. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Sul fronte europeo stasera si aspettano le nomine dal Consiglio straordinario a Bruxelles, l'accordo però non c'è. Assomiglia sempre più a un conclave il vertice che andrà in scena stasera a Bruxelles, solo che i papi da eleggere in questo caso saranno due. La fumata bianca sul primo presidente europeo e sul nuovo alto rappresentante, se arriverà, sarà frutto di un complicato accordo. Al momento i bookmakers indicano nell'accoppiata Van Rompuy, presidente popolare, e D'Alema, Mr. Pesce socialista, il duo favorito. Ma le trappole sono dietro l'angolo. La Gran Bretagna non pare intenzionata a mollare l'ipotesi di mettere Tony Blair a capo dell'Unione, riservandosi di proporre il ministro Miliband alla carica di alto rappresentante qualora il primo obiettivo fallisse. E nel marasma generale anche la Spagna ha messo sul piatto la candidatura di Moratinos e prende intanto quota l'iniziativa della Lobby Rosa per inserire una donna nel novero delle cariche europee e portare a 8 le eurocommissarie nel prossimo esecutivo comunitario. Ieri 30 eurodeputate travestite da uomini hanno manifestato a Bruxelles. Se meno di 8 donne faranno parte della prossima commissione, siamo pronte a bocciarla in Parlamento, minaccia a Radio 24 la vicepresidente dell'Europarlamento Diana Wallace. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. Un flash sulla politica italiana, perché il decreto salva infrazioni ha ricevuto l'ok anche dalla Camera, dunque è diventato legge. Si tratta del decreto che contiene anche il contestato provvedimento sulla privatizzazione dell'acqua. Presentato oggi il terzo rapporto sugli italiani nel mondo, elaborato dalla Fondazione Migrantes, sono quasi 4 milioni gli italiani residenti all'estero, dei quali poco più della metà è effettivamente emigrata spostandosi dall'Italia, più di un terzo invece è nato proprio all'estero, vivono soprattutto in Europa ma anche in America. La graduatoria dei 5 paesi di insediamento maggiore vede la Germania, poi l'Argentina, la Svizzera, la Francia e il Belgio. E da Milano l'edizione 2009 della cerimonia di premiazione L'imprenditore dell'anno. Ci racconta tutto in diretta Anna Marino. Anna. Sì, Annalita, buongiorno. La 13ª edizione italiana si è da poco conclusa a Milano presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. Nella cerimonia di premiazione del premio Ernst & Young all'imprenditore dell'anno, i riflettori si sono accesi su 17 imprenditori selezionati, 5 le categorie, 3 criteri, un fatturato oltre 25 milioni di euro nell'ultimo esercizio e imprenditori alla guida dell'azienda da almeno 3 anni. Categorie, insomma, da rispettare anche in questo momento di crisi. Il vincitore nazionale, Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato di Solomeo, che nell'omonimo borgo in provincia di Perugia e produce cashmere e cashmere a colori, e sarà rappresentante italiano all'edizione estera. Ma sentiamolo. È un piccolo dono anche alla mia Italia, alla mia Umbria, alle mie genti, alla fierezza del popolo umbro, alla tolleranza, devo dire, alla dedizione dei miei uomini, della mia terra, a cui sono molto attaccato. Mi fa molto piacere, devo dire, ma in linea generale trovo che mi sembra che il peggior momento sia passato e si sta vedendo, direi quasi, un'alba di un mondo migliore, che non mi dispiace assolutamente. Ottimismo anche nei numeri, e presidente, è presente anche il presidente della piccola industria, piccola impresa, Giuseppe Morandini, che ha detto che il premio sarà ritirato da qualche eccellenza, ma dovrebbe essere un premio SNC, cioè dato a tutte quelle imprese che quotidianamente cercano di tirare il collo a questa crisi. Chi prima cambia esce meglio e prima dalla crisi, ha detto Morandini, che richiama ancora l'attenzione sui 60 miliardi di crediti che la pubblica amministrazione e lo Stato deve alle imprese, e in più rilancia su una diminuzione graduale dell'IRAP se si vuole parlare di riforma fiscale, cominciando per esempio dal costo del lavoro. E per ora è tutto, linea allo studio. Grazie ad Anna Marino, e noi parliamo della settimana della cultura d'impresa. Ogni giorno ci stiamo occupando di uno degli appuntamenti. Oggi parliamo di New Industrial Landscape, nuovi scenari tra industria e cultura, che è il titolo del convegno alla Fondazione Pistoletto di Biella. Discuteranno rappresentanti di aziende come Borsalino, Max Mara, Ferragamo. La moderatrice del convegno, curatrice del Museo Alessi, Francesca Appiani. Si parlerà di alcuni casi molto eterogenei tra loro, di iniziative che hanno dato luogo a delle strutture che valorizzano una tradizione, soprattutto legata al tessile o al fashion, ma non esclusivamente, creando appunto dei nuovi scenari, come museo impresa o come, ancora meno come museo Alessi, ma come museo impresa non abbiamo una soluzione, ma tra tutti i casi a noi noti, ci sono alcuni casi che secondo noi potevano essere interessanti per offrire degli spunti di riflessione in questo momento. L'idea è proprio questa, di riunire, di proporre dei casi dove c'è stata una felice riuscita di un utilizzo della tradizione per rilanciare nel futuro. Si è diffusa anche tra gli imprenditori la consapevolezza che la loro storia era un pezzettino di storia contemporanea. Se mettiamo insieme l'archivio Fiat, l'archivio Enel, l'archivio delle Ferrovie dello Stato, l'archivio Piaggio, abbiamo la storia d'Italia. Le 13:18, ancora una buona giornata da Annalita D'Ambrosio e dalla redazione. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di politica. Nessun rischio di elezioni anticipate, conferma la maggioranza. C'è anche uno spiraglio sulle riforme. Una piattaforma condivisa sarà presentata il 2 dicembre prossimo. Abbiamo parlato anche di notizie dall'estero, dell'insediamento in Afghanistan di Karzai per il suo secondo mandato, e abbiamo parlato del rapporto del Censis sulla comunicazione. C'è un vero e proprio boom dei social network, si legge però sempre di meno. Ora, come detto, i dati OCSE presentati oggi: il debito pubblico italiano salirà al 120% nel 2011 ed il deficit resterà sopra il 5%. La previsione dell'Economic Outlook, secondo cui il PIL italiano calerà del 4,8% quest'anno per poi tornare a crescere dell'1,1% il prossimo e dell'1,5% nel 2011. Se la ripresa economica c'è, anzi è migliore del previsto, non altrettanto può dirsi per il mercato del lavoro. La disoccupazione in Italia salirà ancora, attestandosi quest'anno sul 7,6% e crescendo di quasi un punto percentuale nel 2010. L'OCSE, poi, sullo scudo fiscale ha chiesto che resti una misura eccezionale. Dati che commenta così il ministro Sacconi al microfono di Alessandra Schepisi. I dati OCSE confermano ciò che sapevamo, cioè un 2010 diversamente complicato dal 2009, nel senso che se il 2009 è stato l'anno della gelata generalizzata, il 2010 appare essere caratterizzato da luci di ripresa e da ombre sull'occupazione. Per questo vogliamo tenere alta la guardia dal punto di vista della liquidità delle imprese e della occupabilità delle persone, del sostegno al loro reddito e dell'investimento nelle loro competenze, e allo stesso tempo conservare una linea di stabilità della finanza pubblica. Sulla Fiat continua la protesta degli operai, operai che chiedono un incontro al governo. Ci saranno tavoli negoziali nei quali discutere, perché come ho detto i piani non si subiscono ma si negoziano. La Fiat dunque in primo piano, e sentiamo allora la cronaca dalla Sicilia. Hanno trascorso la notte nell'aula del Consiglio Comunale. Gli operai della Fiat di Termini Imerese da ieri mattina si sono insediati al municipio in occupazione permanente. Protestano contro l'ultima ondata di cassa integrazione, ma soprattutto contro il piano dell'azienda, che prevede la riconversione dello stabilimento siciliano e lo spostamento in Polonia dell'unica vettura attualmente in produzione, la Lancia Y. I sindacati minacciano lo sciopero generale nel comprensorio di Termini. Oggi i dipendenti Fiat sono 1370, mentre altri 800 lavorano nell'indotto. Stamattina un incontro con i sindacati del comprensorio della provincia di Palermo, oggi pomeriggio un incontro con il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola. Il governatore siciliano Raffaele Lombardo ieri ha annunciato che il 21 dicembre al tavolo di verifica con la presidenza del Consiglio Fiat Auto porterà un piano industriale che prevede il rilancio di Termini Imerese. Alessia Bivona, GR24 Il Sole, 24 ore, Palermo. Un fax dimenticato a Milano, burocrazia ed inadempienze sono costate la vita ad una donna. Il suo omicida, l'ex marito, si sarebbe dovuto trovare in carcere. È martedì 23 giugno 2009 quando Massimo Merafina, 45 anni, una pena da scontare in misura alternativa, uccide a coltellate l'ex moglie davanti a un asilo di Milano. La donna ha in braccio il figlio di 2 anni. Ora si scopre che l'uomo si sarebbe già dovuto trovare in carcere da 3 giorni. L'ordine di arresto emesso dal Tribunale di Sorveglianza su segnalazione dei servizi sociali venne comunicato via fax alle forze dell'ordine sabato 20 giugno, ma il commissariato iniziò le ricerche solo 48 ore dopo, lunedì mattina, troppo tardi per riuscire a fermarlo. Un disguido, una dimenticanza oppure un difetto di ricezione, le indagini lo stanno accertando, che si aggiunge a un'altra mancanza, questa già nota. Qualche giorno prima la donna aveva sporto 2 denunce per stalking, denunce che arrivarono in procura solo la mattina del delitto. Nella triste concatenazione di eventi anche un paradosso. Monica Morra, per il suo ruolo di testimone in un'altra vicenda, era sottoposta a una vigilanza mobile di polizia. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 ore. Presentato ieri da Roberto Formigoni, Arnold Schwarzenegger prende il via oggi a Milano il World Regions Forum. Riunisce le 15 regioni più dinamiche ed evolute del mondo, il World Regions Forum, la 3 giorni di meeting promossa dalla Regione Lombardia, che mira a creare un network permanente sui temi dell'ambiente, della sanità e del capitale umano. Le regioni presenti a Milano, ma è più corretto definirle governi subnazionali, rappresentano tutti e 5 i continenti. Si va dalla California a Dubai, da Madrid a Singapore. Insieme costituiscono il 10% del PIL mondiale, pari a 5.000 miliardi di dollari. Uno dei fini del World Regions Forum è politico, come sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Verificare cioè che tutti siano convinti dell'utilità di avere una rete forte, di far valere sempre più i diritti, le competenze delle regioni anche nei confronti dei loro stati. Sia ben inteso, non è una conflittualità con gli stati, ma è sottolineare che di fronte a molti problemi le regioni e i territori sono più virtuosi degli stati e che molte novità sono indotte dai territori. Le proposte sull'ambiente, come l'Agenzia Virtuale Internazionale approvate dal World Region Forum, verranno presentate al Vertice Mondiale sul Clima di Copenaghen. Il G15 delle regioni, come è stato ribattezzato, tornerà poi a riunirsi ogni 2 anni. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo a Milano perché sarà inaugurata oggi alla Triennale la mostra La città fragile a cura del sociologo Aldo Bonomi. Le fragilità dell'uomo contemporaneo, territorializzate soprattutto trattandosi una mostra che va in mostra a Milano, passando dal disagio delle città, ma parlando anche delle nostre città, devono affrontare quello che io chiamo le cinque frecce o schegge del rancore o di una tendenza verso la comunità rancorosa e rinserrata. La prima freccia, una grande voglia di sicurezza, che si capisce ovviamente, di rinserrarsi. La seconda freccia o scheggia che pone problemi è quella che io ho chiamato provocatoriamente il biscotto nero, ricordando e rappresentando che in questa città, e stiamo parlando di Milano, un ragazzo italiano di colore che aveva rubato dei biscotti è stato ucciso. La terza freccia che noi ci troviamo nella nostra vita quotidiana è rappresentata dal femminicidio. Basta pensare che in Italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni da parte di un convivente. Quarta scheggia, quello dei suicidi, che io ho chiamato la mala ombra. Calcio, ultimi verdetti per le qualificazioni mondiali 2010 in Sudafrica, passano Algeria, Portogallo, Grecia, Slovenia, Uruguay e la Francia, che elimina ai supplementari l'Irlanda di Trapattoni. Decisivo però un tocco di mano di Henry, non visto dall'arbitro svedese Enson. I'm not the referee at the ball hit my hand, and I will be honest, it was an unball. Io non sono l'arbitro, ma ammetto che l'ho toccata con la mano, lo ammetto. Ma potevi dirlo all'arbitro. L'ho fatto, ma mi ha risposto allo stesso modo. Non sei tu l'arbitro. Dialogo reale, ma paradossale, tra Thierry Henry e un giornalista inglese negli spogliatoi dello stadio di Saint-Denis. Il bomber del Barcellona decide la sfida con l'Irlanda con un tocco di mano che vale l'assist dell'1-1 per il compagno Gallas e la qualificazione mondiale della Francia e l'eliminazione dell'Irlanda. Trapattoni, 70 anni e almeno 55 passati tra campo e panchina, parla di più grande delusione della sua carriera. Ma a dar l'idea della figuraccia fatta ci sono soprattutto le reazioni dei media transalpini. I più benevoli parlano di successo senza gloria, i più sinceri di imbarazzo e vergogna. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. 5 le novità nell'Italia del rugby che sabato affronterà ad Udine il Sudafrica. Il tecnico Nick Mallett ha infatti scelto la formazione titolare per il test che segue quello con la Nuova Zelanda disputato a San Siro. 2 i cambi tra i tre quarti, altrettanti tra gli avanti e 1 in mediana. A guidare il gioco azzurro la coppia Gower-Picone. È tutto per questa edizione, vi lascio a Buongiorno America, un grazie in regia a Carmelo Lauricella, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.